giunge Orlando ancor con la sua morte, assicurar vuol la mia pace. Alcina della rupe l'incanto sole non userà, quindi portuno calma mia, se vuoi godere mia bella, eccomi sospirosa, mi accogli ancor. Favella, a qual rispetto mai per te si vada? Va per il mio, vi son mostri o giganti, o cuore, o braccio, o spada, a vincerli per te. Mi inorridisco al solo pensarvi, troppo mi costeria costato il tuo periglio, la capricciosa mia brava importuna. Tracco se il colgo il laccio, mi d'oro di periglio e mi d'impaccio. Dunque m'invidieresti il glorioso?